questione di qualità. La tua presenza rassicurante, ipnotica, mi affascina e gioca col mio senno e lascia ben poche briciole. E io amo darlo a te, uomo abile, custode degli sguardi che ti dedico fra lo sragionamento e l'estasi degli amplessi magnifici. Perché tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Tu sai come farmi uscire da me, dalla gabbia dorata della mia lucidità. Non voglio sapere quando, come, perché questa meraviglia alla sua fine arriverà. Mi strega e mi rapisce la tua giovane saggezza incomparabile, che assegui l'eleganza di ogni tua intenzione è incantevole. E quando ti congiunge a me, sai essere deliziosamente spinta, indocile, coltivando le tue braccia.